Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Avete ascoltato Buongiorno Mondi, io sono Lorenzo e ci vediamo domani, sempre stessa ora, stesso posto. Ciao a tutti!